Beh, la distanza iperfocale è quella tecnica fotografica che permette di mettere a fuoco sia il soggetto in primo piano che lo sfondo senza perdere profondità di campo. Quindi, fuori di metafora, per noi significa in questo momento così complesso anche da un punto di vista culturale, politico, contenutistico, cercare di concentrarci su quelle trasformazioni che sono all'interno dell'individuo e che sono fondamentali per fare dei processi di crescita in relazione a ciò che cambia intorno a noi. Quindi, mantenendo questo doppio sguardo, lo sguardo un po' strabico, ma che ci permette una doppia messa a fuoco. Questo sabato, il 30, ci sarà, insomma, la serata di opening. Come si svolgerà? Sì, per noi è sempre l'opening un momento di festa, è un micro festival sostanzialmente condensato in un giorno che porta dentro proprio questo movimento, questo respiro dal soggetto in primo piano allo sfondo, in tutte le cose che abbiamo deciso di programmare sabato. Mettiamo dentro diverse forme artistiche e diverse, diciamo, focus tematici, proprio in qualche modo a dare una sorta di sample, di campione di quello che succederà poi nella stagione. Quindi iniziamo alle 18. Con una delle, diciamo, condivisioni pubbliche di questo progetto che si chiama Previsioni, che è un progetto che abbiamo fatto all'interno del PON Metro del Comune di Bologna, di condivisione insieme a giovani persone, quindi adolescenti e ragazze e ragazzi tra i 25 e i 30, su due temi fondamentali. Uno era l'immaginario visuale, la rappresentazione fotografica e la scelta della condivisione, quindi come le ragazze e i ragazzi adolescenti decidono di inquadrare e che cosa pensano di selezionare sui vari social. Ci è interessato molto la relazione fra un fotografo professionista come Stefano Questorio, il nostro, diciamo, percorso artistico e la loro visione. E un altro focus è stato invece con le ragazze e ragazzi tra i 25 e i 30 lavorare sulla loro autoimmaginazione nel futuro dal punto di vista lavorativo, cioè come, a cosa ambiscono, cosa sperano e in primis se si sentono legittimati ad aspirare, ad ambire, a desiderare. È un tema affascinantissimo in cui un gruppo di 12 persone hanno lavorato nei mesi scorsi e il 18 abiteranno quattro spazi del sì e accoglieranno il pubblico condividendo parte del lavoro e proponendo parte di questo lavoro, autorappresentandosi e anche attraverso, proietteremo in loop poi per tutta la serata, un video di interviste che loro hanno realizzato con i loro coetanei. Poi ci immergiamo nell'anima di Cinzia Pietribiasi con Mama, che è un'artista che amiamo molto, che era stata qui da noi 3 anni fa in residenza con Padre d'Amore e Padre di Fango, che era un lavoro sul rapporto tosto con suo padre, vissuto tutta la stagione dell'Orrorina degli anni 80 in Veneto. In questo caso, dopo quel lavoro, ha deciso di concentrare la propria attenzione sul rapporto con la madre e più che altro sull'assenza della madre, la madre che vive anche lei un percorso esistenziale molto turbolento, a cui all'eroina si aggiunge l'HIV. Poi incontrerà le parole di Alina Marazzi, che è una cineasta molto, molto interessante, che le abbiamo proposto come tutor di questo progetto di residenza. Anche lei ha lavorato sull'assenza della madre, in questo caso un suicidio, nel film Un'ora sola ti vorrei, e ci sarà un dialogo a distanza fra loro due. Poi, dall'anima di Cinzia passiamo all'anima poetica di Alessandra Cava, poeta di Bologna, ma adesso che vive a Parigi. Ci interessa particolarmente questo progetto che si chiama Eleanor, perché mette insieme la parola poetica con il linguaggio visivo. Quindi a parlarcene ce ne saranno anche le persone di Aufelia, che è questa casa editrice che ha studiato questo format, per cui è un libro, è sempre collegato a una serialità audiovisuale. E ci saranno anche le persone, le ragazze dello spazio letterario, che è un altro giovane soggetto bolognese che si concentra sulla parola poetica che amiamo, con quale amiamo interloquire. Si riapre lo sguardo poi con il lavoro di Slow Machine. Siamo tutti una famiglia che parte dal libro omonimo di Tina Merlin, che racconta le lotte operaie dei ceramisti nella Veneti, nel Bassanese, proprio a ricollegarsi a come avevamo iniziato e a dare uno sfondo a questo rapporto con il lavoro. Concludiamo con un piccolo dono perché è il decimo opening del sì. Apriamo i festeggiamenti che poi si continueranno principalmente nel 2024 attraverso una collana di nostre opere, anche opere in repertorio che riproponiamo insieme ad artisti, artiste, altri colleghi e amici, anche a sottolineare che il sì è spazio di ospitalità, di residenza, ma principalmente spazio di produzione. Beh, insomma, direi un'apertura Sì. scoppiettante, nient'altro da aggiungere. Poi, come dicevi tu, il programma andrà avanti, si festeggeranno questi 10 anni di Ateliersi. Qualche focus su questa programmazione? Guarda, sono le cose da qui a dicembre, sono tante. Metto l'accento proprio su un paio, due, sì, tre forse. Una è questo incontro con Zoé Lacnati, che è una giovane danzatrice e coreografa francese che ospitiamo sempre all'interno del progetto di Residenze e che ci proporrà un lavoro sulla trasformazione del corpo, alla quale abbiamo deciso di accompagnare un momento per il quale abbiamo chiesto di aiutarci a Federica Matucci e Andrea Giannesi del Teatro dei Servi Disobbedienti, di DAS, perché ci sembrava l'occasione, lei è molto giovane, per aprire lo sguardo a anche una scena bolognese artistica più giovane di noi, diciamo in qualche modo, con la quale non sempre entriamo in contatto come vorremmo, perché a volte gli ambiti sono paralleli, e quindi ci sembrava l'occasione per farlo. E dopo lo spettacolo ci sarà questo incontro che si chiama Sguardi per una resistenza poetica, curato da Federica, da Andrea e da noi, che metterà al centro alcuni temi tra vita, arte e politica per noi e per le generazioni, diciamo, più giovani. Questo è il 17 ottobre, sarà seguito poi da un nuovo lavoro dei Mask che si chiama Voodoo. Un'altra piccola cosa, parte la settimana prossima qui all'Atelier C, il laboratorio di lettura ad alta voce che si chiama Lettura al Cosmo, i Rom d'Europa, che è la realizzazione di un sogno per noi, perché noi da più di 15 anni, da quando siamo andati a vivere per un po' in Macedonia con una comunità Rom, che lavoriamo con insieme su Rom, Sinti e rapporti fra Rom, Sinti e Gagé, in questo caso. E dall'anno scorso abbiamo inaugurato questo format che si chiama Lettura al Cosmo, che è un percorso da 2 anni, un percorso di lettura collettiva ad alta voce, in cui un gruppo si riunisce e lavora sulla propria presenza in relazione con delle parole. In questo caso lavoriamo sul libro che per noi è stato fondante, che è Rom d'Europa di Leonardo Piasere, e siamo riusciti, grazie al lavoro di Ticana, al lavoro di tutti noi, al sostegno del Centro per il Libro e la Lettura, a costruire una rete. Quindi questo laboratorio sarà al SI, ma sarà la Biblioteca Cabral, sarà la Casa Gialla Luigi Spina al Pilastro, sarà a Pieve di Cento le scuole, sarà a Calderara la Casa Italo Calvino, sarà alle Aldini Valeriani, quindi attraverserà da qui all'8 aprile, che è la giornata internazionale di Rom e Sinti, tutto il territorio dell'area metropolitana bolognese, con le parole di Leonardo Piasere, con il nostro lavoro sulla presenza scenica e con la presenza di un gruppo eterogeneo costruito da ragazze e ragazzi Rom, Sinti, non Rom, non Sinti, che lavoreranno insieme.